Jean-Cyril Spinetta parlerà ai suoi consiglieri, spiegherà al CDA di Air France i motivi che hanno portato alla rottura con i sindacati italiani. Si deciderà soprattutto se riaprire o meno il confronto con i rappresentanti dei lavoratori. La trattativa è dunque appesa a un filo mentre il governo tenta la mediazione con il sottosegretario Enrico Letta. In molti ricordano il rischio che i soldi finiscano e si arrivi al commissariamento anticamera del fallimento. Ne ha parlato anche il ministro dell'economia che sabato si è appellato ai sindacati rivolgendo quello che è sembrato un vero e proprio ultimatum. Per Padoa-Schioppa c'era bisogno di un segnale forte nel giro di 48 ore, cioè entro domenica, prima del CDA di Air France. Dai sindacati confederali per ora nulla, solo dichiarazioni in cui si dicono pronti a riavviare il negoziato, ma senza alcuna disponibilità a firmare accordi in bianco, precisa Bonanni della CISL. Cresce intanto il numero dei dipendenti che spinge per l'accordo con Air France. Qualcuno ha anche iniziato lo sciopero della fame in aperto dissenso con i suoi rappresentanti. Paola Nania, GR24, Sole 24 Ore.